Per il decennale dovremmo fare una Marcord, mi sa. Magari per il decennale riusciamo anche a vederci tutti dal vivo, visto questa... Chissà. Roberta, come stai? Comincia a contare bene quando è, perché... Ah sì, certo, ma ce la possiamo fare, ma... anche perché il primo file l'abbiamo registrato, per cui basta andare a vedere nel primo file, nel primo coxo, la data di salvataggio del file e via. Ma su www.coxospaziale.blogspot.com ci sono anche i primissimi coxi oppure no? È una buona domanda, ma io direi di sì. Anzi, fra l'altro, io direi di no, invece. Siccome siamo direi in casa, possiamo andare a guardare. Adesso digito coxo spaziale. No, però aspetta Stefanuccio, perché mi chiedevo, tu quel branino che ti avevo passato il link prima, ce l'hai mica lì? Diciamo che non ce l'ho proprio qui, però... Perché, come per i vecchi cox in cui c'ero anch'io, facciamo un po' di musica per entrare nel vivo del cox, anche perché secondo me questa canzone... ci introdurrà in un tema forte, oltre che ricondurci finalmente alla nostra ospite del momento, che è venuta a farci un salutino breve, e perciò non è che possiamo tenerla qua a nostri coxi comodi. I nostri coxi comodi. Allora, ma io sono felice di ascoltare finalmente in introduzione un pezzo scelto da Fedra, piuttosto che ascoltare per la 451esima volta Gianni Owen Young. Sì, che fra l'altro, infatti, stavo per dire... Vero che fa sempre così, Stefano? C'ha queste vocine un po' così e gli piace, no, lui fa... stavo per dirgli che Gianni Owen Young... Io pensavo che fosse un programma di musica punk, invece poi... Vabbè, no. Comunque Fedra su Telegram non mi è arrivato l'MP3 di cui parlavi, per cui non ma so... Ma te l'avevo spedito... Come no? Giuro. Non è un MP3, è un link. Ah, è un link... Te l'ho anche rimandato prima. Me l'hai messo nella chat qua? Qua chat, qua sì. Ce l'hai dappertutto? L'ho moltiplicato in tutti, com'è che si chiamano, i device? No, ah, beh anche. Però sai cosa è successo? Che io sono uscito e rientrato, per cui non ce l'ho. E te la rimando allora. Allora forse ce l'ho io. No, io non ho niente qua. Però tanto noi non possiamo mica mandarla, perché è lui l'uomo regia. Sono io. Eccolo regia. Di nuovo. Eccolo qua. Wow. Però ci possiamo cliccare sopra e ascoltarcene anche noi? Forse no. È meglio di no. Forse è meglio di no. Perché stiamo provando, informiamo tutti i nostri numerosissimi ascoltatori, e in particolare Oscar Moroni, che siamo in presenza assenza in questa puntata. Ci stiamo registrando via Meet, come va di moda in questi tempi. Sì. L'eterno presente è giunto e noi ne siamo parte. Certo. Hai capito. E dunque ascoltiamoci questa Chinese Italian singer performs Chinese song to wrap up Music Week. Yeah. Ciao Moroni. 你声音在心间。 Wow, incredibile. Ciao Roberta, benvenuta di nuovo al Coxo. Possiamo dirti madrina del Coxo? Ma onorata, ma mi si sente, ragazzi? Ti si sente, sì, ragazzi. Ciao. Ah, ok. Perché vi vedo così pronti di riflessi. Io invece, essendomi svegliata da poco, diciamo da una mezz'oretta, per carburare mi ci vuole un po', però grazie per questa introduzione, anche per aver messo su questa canzone. Non me l'aspettavo che... Non me l'aspettavo, grazie. Non me l'aspettavo neanch'io, anche perché di solito abbiamo delle mie ex studentesse cinesi che cantano in italiano Coxo Spaziale, mentre invece stavolta abbiamo Roberta Giallo che canta in cinese con anche la traduzione in inglese del pezzo. Per cui esatto. È veramente bellissimo, devo dire. Grazie. Io, intanto, in modo del tutto casuale, avevo messo come icona dei miei appunti coxici il cane di Fo, che è un'icona cinese di non secondo piano. Vedi, l'eterno presente ritorna. Ma Roberta, ci racconti un po' cosa sta alle spalle di questa tua interpretazione cinese, a parte la frequentazione con l'Oriente che hai in comune in qualche modo con il nostro Pasquini, che poi andremo ad evidenziare. Infatti è curiosa questa cosa, perché ieri, insomma, quando tu mi proponevi di essere presente, insomma, a questa puntata, dico, caspita, dico, anche Pasquini è sempre in Cina, insomma, è sempre da quelle parti. Ma allora, io, secondo me, nasce da questa mia fascinazione enorme per l'Oriente, ma da sempre, cioè affascinati da quello che non si conosce, no? E questo è, per me è stato sempre così, l'Oriente, dalle stampe orientali, tutto. Poi per Oriente io intendo Giappone, intendo Cina, intendo India, intendo un po' tutto, diciamo, tutta la massa orientale. Però in questo caso specifico, diciamo così, io sono in contatto con un mediatore culturale sono stata, insomma, già appunto in Asia, Hong Kong, Singapore, anche Ho Chi Minh, Vietnam. Fantastico. E comunque, insomma, dicevo fantastico. Stefano? Sì, no, io sono ammirata davvero da quei luoghi, ma anche dai loro colori, anche da queste strade dove veramente convivono, che ne so, cartelloni pubblicitari, insegne luminose in ogni dove. Poi c'è anche il poveretto che mangia per strada i suoi voltini, il suo baracchino. È veramente affascinante, insomma, viaggiare da quelle parti, perché poi appunto amando i colori, il gioco, loro hanno tutti questi poi manga, insomma, cartelloni magari dove c'è il maialino o c'è il coniglietto, quindi sono davvero simpatici. Comunque, insomma, questo mediatore culturale mi ha detto, guarda, si avvicina il Capodanno cinese, mi piacerebbe che tu potessi cantare questa canzone in cinese, vuoi provare? E io amo, diciamo così, amo cimentarmi in ciò che non ho mai fatto, quindi ho scelto tra varie canzoni che mi avevano mandato quella che sentivo più affine, diciamo così, alle mie corde. L'ho scelta, ho fatto un piccolo arrangiamento al piano, l'ho inviata e quindi loro poi l'hanno mandata, adesso non so se nell'ambasciata, sono in Cina, sarà visto, insomma, quindi questa performance, diciamo, che poi loro hanno arricchito anche inserendo loro quelle immagini, quelle scritte, anche perché io non parlo cinese in realtà, quindi ho dovuto fare anche un brevissimo corso accelerato, ma insomma, infatti per cantarlo. Domandona, ma dal punto di vista della professione canora, è stato difficile trovare le sonorità della lingua cinese, che so che proprio per natura è estremamente diversa dalla nostra. Ma allora, guarda, ti dico la verità, sicuramente un pochino chi canta, chi fa musica, un po' d'orecchio ce l'ha. Ecco, adesso io poi non penso che chiaramente la mia dizione sia perfetta, questo no, però non è stato così complicato. Nel senso, io ho fatto così, io ho ascoltato la versione originale e quindi ho tratto con la mia matitina quelli che mi sembravano essere i suoni originali, dopo, aiutata tra l'altro dal mio compagno che aveva studiato già un po' di cinese, un po' di giapponese. Dopodiché... Grande Mattia! Esatto! Dopodiché almeno uno sfrutta veramente anche gli studi che fa, arriva il momento che dice, oh. Poi per ancora raffinare di più la cosa, la compagna invece del mediatore cinese culturale cinese che mi ha chiesto questa cosa, mi ha mandato lo speech, il parlato, però cambia molto, perché se tu leggi è una roba, se canti un'altra, quindi io poi ho fatto un mix tra quello che avevo tirato giù insieme a Mattia ascoltando e leggendo il testo e quello che lei ha letto parlando. E quindi poi, insomma, mi hanno detto che era buona, poi io l'ho mandato un primo invio registrato col telefono e Sean, insomma, mi ha detto va benissimo la pronuncia, insomma, evidentemente era un livello accettabile, e quindi sono contenta, insomma, sicuramente ho capito che loro non hanno queste vocali aperte, hanno questi suoni molto g, sh, poi, Stefano lo saprà, quindi dobbiamo immaginarci questi vocali dette e non dette, insomma. Io so dire solo sudo, sudo. Esatto. Che vuol dire, tu sai dire sudo? Esatto, che vuol dire vegetariano. Ma sai anche il cinese, oltre all'inglese. Questa me, io non lo sapevo questa cosa. Chi, io? Ma solo sudo. No, io so solo dire xie xie, che vuol dire grazie, e poi so dire sudo, che vuol dire vegetariano. Però loro ridono e mi danno della carne, capito? E ti danno del bolognese. Xie xie. Sì, sì. Esatto, sì, sì, lo so dire. Qualcosa, poi loro ti capiscono, chiaramente. No, ma poi giustamente ciascuno ha imparato il vocabolario che gli serve, Roberta, esatto, a dire grazie, complimenti, agli onori, e tutto. Tu invece a dire datemi la magna delle verdure. Esatto. Sì, no, perché poi loro hanno una grammatica molto base, per cui io vegetariano, esatto, capito? Così. No, ma a questo punto, che è la domanda che... Sappiamo benissimo, Roberta, cosa ci va a fare in Oriente, ma tu, Pasquini, cosa vai a farci in Oriente? Io paradossalmente vado a fare la giuria in un premio d'arte, cioè sono uno dei giurati di un premio d'arte, un po' tipo un X-Factor. Blasonissimo, anche da queste parti, anche da questa parte del Cox, grande Pasquini! Però, tu l'avrebbe mai detto, vegetariano così? Esatto. No, quest'anno almeno non mi hanno chiamato perché non è possibile. In cui espongono artisti cinesi. No, non ho capito niente, scusa. Un premio d'arte di artisti cinesi. Sì, sì, sì. È il premio Van Gogh, il famosissimo premio Van Gogh, fra l'altro. Ah, però uno, cioè, così dove i vincitori vincono un viaggio in Olanda e stanno 2 settimane a fare dei workshop di pittura, e poi vanno a vedere tutti Van Gogh, eccetera, tutto spesato, eccetera, eccetera. Sa che su questo, Stefano, approfondiremo in uno dei prossimi Coxi, così più variopinti. A proposito di Coxi variopinti, io in realtà non posso non mettere una canzone di Jenny Owen Youngs, perché è uscita 3 giorni fa e c'è una nuova band, loro si chiamano XLA, no, oppure LAX, non mi ricordo più. Aspetta che... Però io vorrei metterla dopo aver fatto altre 2 chiacchiere con Roberta, certo, e salutata, perché so che ha una giornata molto lunga da affrontare. Sì, si è svegliata, poverina. alle 7 di sera. Per gli ospiti coxici che non sono musicalmente informati, facciamo una presentazione un po' più sì, infatti, anche perché di Roberta Giallo, perché l'abbiamo buttata nella mischia così. Abbiamo visto che lei parla e canta cinese come se non ci fosse un domani, ma magari qualcuno vuole saperne di più. Beh, allora, diciamo che questo è un po' un aspetto coxico, perché diciamo il Cox e Roberta nascono un po' insieme, se è per questo, vi ricordo. Ormai è un'esperienza, insomma. Ma comunque, Roberta nasce come cantautrice italiana, d'adozione bolognese, come si dice, e da quegli anni lontani in cui cominciava a muoversi nell'alvo dei musicisti sotto l'ala di Lucio Dalla, ne sono passate tantissime, prodotti, uno anche, fra l'altro, che dovrà uscire entro la fine dell'anno, perché è l'ultimo bando che hai visto. Nel mentre poi la sua professione si è andata declinando tra il teatro, per colonne sonore, tour internazionali con artisti di prima fama, e addirittura è diventata interprete cinematografica con un film nato e prodotto a Bologna, se non sbaglio, come il protagonista. Conte Magico di Marco Meluso e Diego Schiavo, sulla Rocchetta Mattei, il Conte Cesare Mattei, inventore, diciamo, dell'elettromagnetismo, preparatissima, ragazzi. Dopo c'è una diretta con loro che devono presentare. C'è una diretta con loro dopo che devono presentare una proiezione, quindi preparata. Poi creatrice di format, conduttrice teatrale, che ha anche creato uno spettacolo teatrale che è l'esito teatrale delle ricerche per il suo secondo album, se non sbaglio, L'oscurità di Guillaume. Mi piace raccontato così, sì, comunque sì, è, diciamo, l'opera teatrale legata a, a questo album, a questo concept album che è stato declinato in vari, in vari, diciamo così, in vari momenti, c'è anche quello, sì. Aspetta, poi... il film a questo momento, quello. Tralasciando tutto l'oltre Roberta Giallo, che è un cosmo, io l'ho conosciuta che faceva gli autoritratti dinamici e non era ancora Roberta Giallo perché era in una forma un po' in incognito, se non sbaglio, e tanti altri alias, fra cui la mia amatissima Robby Yello, la rapper Deniadero, altri. E Cliscia Bobo Pigamago, che abbiamo incontrato io e Stefano ancora prima del Coxo ad un'arte fiera con Aelia Media, infatti. Cioè, hai capito? E mi fermo qua, Chiara, perché sennò poi dice che passano i 10 minuti e Roberta dice ciao. E sai come mi riassumo? Esatto. Mi riassumo come immaginate la mia testa che si apre come un vaso di Pandora, però non un vaso di Pandora negativo, ben augurante. Infatti anche per il Capodanno cinese ho cantato, insomma. Allora facciamolo aprire come una cornucopia, eh? Che col Capodanno cornucopia, che è il corno degli dei pieno di tutte le gioie, le delizie, via dicendo. Oh, sì, brava, guarda, vedi, imparo anche una parola nuova. Guarda, poi... sei un pozzo di scienza, caro. Vedi, imparo, del resto, chiamandoti Fedra, sei amica del mondo antico. Aspetta che c'è un'altra immagine da mettere poi sul blog, un altro, eccola qui, Roberta Giallo vista dall'azzurro. E, tornando a noi invece, che poi effettivamente dobbiamo lasciarti, e poi c'è Stefano che anche preme dall'ascoltare la sua nuova cantante preferita, e l'ultima uscita, quindi... questo è stato un anno inimmaginabile. Sì, infatti mi soffermerei, guarda, su quello che stavi accennando tu. Sono una ragazza fortunata, come cantava Jovanotti, io al femminile, perché no? Insomma, il 2020 chiaramente è stato un anno difficile per tutti, il 2021 lo sarà, però tutto sommato io sto lavorando molto anche alla produzione di nuove cose, e poi il Comune di Bologna ha accolto questa mia proposta di realizzare un album un po' particolare per il 2021. Nel 2020, insomma, forse lo saprete, ho realizzato un album tutto in casa col telefonino vicino a vicino in cui cantavi i cantautori. Per il 2021 ho presentato questo progetto al Comune, dove intendo, diciamo così, musicare le liriche di alcuni poeti esistenti e non. Uno è Giovanni Gasser, che oltre ad essere un fotografo di fama internazionale, forse Stefano, Fedra, non so se lo conoscete, Chiara, ha fotografato anche da Obama, Naomi Campbell. Io l'ho incontrata al Max di Roma, al museo, dove ho avuto occasione di, durante la sua mostra fotografica, ho cantato, diciamo così, a questo evento di presentazione. Quindi, avendo avuto modo di conoscerlo lì, è nato questo feeling e gli ho detto: ma mi piacerebbe musicare le tue poesie. Poi questo album, appunto, musicherò anche alcune liriche di Davide Rondoni, che è un poeta bolognese che tutti voi conoscete, penso. E poi, grande scoop, diciamo così, io sono in contatto da tempo con il nipote di Roberto Roversi, grande poeta, appunto, che tra l'altro donò anche dei testi a Lucio Dalla, alcune delle canzoni, penso a Anidride Solforosa, Il motore del 2000, tanti altri. Cosa succede? Che il nipote mi ha donato alcune liriche, tra l'altro del poeta Roversi, destinate a Lucio Dalla, non ancora musicate, quindi inserirò... inserirò, si chiude il cerchio, esatto, quest'anno! Esatto. Ma Lucio c'è sempre, ragazzi, in un modo o nell'altro compare, appare di traverso, da dietro, insomma Lucio sempre compare. E quindi, insomma, il Comune ha appoggiato questo mio progetto, e tra l'altro sarà un progetto particolare, perché viaggia tra la performance, perché sono comunque poesie musicate, quindi anche il concetto di poesia musicata non è proprio uguale a quello di canzone. C'è in un certo senso una libertà anche maggiore nella struttura della canzone, che è legata, diciamo così, a delle regole. Invece io, infatti, ho chiamato questo album, che uscirà entro il 2021, Canzoni da museo, perché intendo proprio, anche quasi, non dico arrogantemente, però mi piace l'idea di creare qualcosa, anche se magari non è vero, l'hanno fatto tanti altri. Quindi sarà un album che però si compone anche di una parte visual, di una parte performativa, di una parte più estemporanea, e io spero di andare nei musei a farlo, capito? E di sicuro al Coxo ci ritorni e ne parliamo in maniera puntuale, perché altro che 10 minuti così, esatto, noi dobbiamo andare a scavare. Anche perché noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, per cui ti ringrazio. Siamo già... Come vola il tempo. Il tempo veramente vola quando ti diverti. Grazie a te, Aroppi! Le posso dire solo grazie, ragazzi, questa presentazione, vi saluto con la Franca per oggi. Ragazze, grazie veramente infinite, siete stati gentili, dico di più, grazie per tutti gli onori, lustri, anche la cornucopia, adesso mi vado a studiare, ragazzi, che mi piace già l'idea del cornetto da cui spuntano fuori tante cose belle e buone. Grazie Stefano, grazie Fedra, grazie Chiara, ricordo bene questo ciuffo con gli occhiali. Chiara, Zucca, fantastico, io sono molto onorata di averti conosciuta e ma grazie. Veramente che bel coxo che siamo. Sì, un bacio ragazze, ciao da zia Franca, la zia di Roberta Giallo, ciao a tutti, ciao cara, grazie mille, ciao, grazie, ciao. Coxo spaziale. I practiced nail art for years, since I'm about 17. I'd like to share it with you. So I'll talk about me, if you don't mind, but the purpose is to talk about nail art. There is different epochs in my nail art activity. I'll try here to tell briefly the history of it. First epoch, nail art for relatives. 1989-1999. I started to send handmade envelopes and collage or paintings mails at the end of the high school in Angoulême, France. I wrote to girls, to friends, to girlfriends a lot. Probably as literature, mail art starts with love stories. As I left home and moved to Marseille in 1991 to study at the art school, stayed some months in Berlin in 1994, and lived after art studies in Djibouti, Africa, during 2 years, 1996-1997, I kept on mail arting mainly to friends, to my parents, my sister, and to successive girlfriends. I remember I saw in the 80s an exhibition about male art called Rotula, I guess. A male was traveling by post, each recipient adding a piece, sewing it to the precedent, making a roller of males, as it was done in the Middle Age from abbey to abbey. I was impressed by the idea and by the result. If I mailed with a few artists, mail art was rather my way to keep in touch with relatives. Second epoch, time of emails. Temporary abandonment of mail art, 1999-212. When I came back to France in 1997, I bought a computer with scanner and printer. I kept on mail arting using more documents I printed. But in 1999, I lived then near Paris, I get my first home connection to internet. As a lot of people, I think, it changed a lot of things in my world and people's relationship. I used emails a lot, and I loved it. From the start, I used emails to create collective writing projects, what I still keep on doing it today. Partly because of emails, also by lack of availability, because I became father once, twice, I was unemployed, I resumed studies, became nurse assistant, I almost completely abandoned practicing mail art between 28 and 40. Third epoch, Renaissance of Male Art since 212. What is the reason of my comeback to male art? A more quiet and stable life? After sending thousands of pictures, including my New Year cards, by emails, I missed materials, papers, painting, ink and glue on the fingers. The wish to create or recreate connection with art and artists. I really felt the need to send and receive mail art again. Then I used internet to find some addresses of mail artists. I sent mail art postcards at random. Some people answered, and it was a new start of my mail art activity. Obviously, it took part of the International Equiterist I founded some years ago to promote human links through literature, calligraphy, typography, and correspondence. A highlight was Paper to the People project. I broadcasted in summer 215. I collected various blank papers from correspondence, mixed, bonded, and sent it back to them in issues of 10 different papers. It extended my network and enriched exchanges in quantity and quality. I created a blog about my mail art activities called Rue des Abeilles. Even if I knew Dada and Fluxus, including Robert Filliou, for years, I gradually see the link between mail art and Fluxus through Ray Johnson, who I didn't know. I applied to IUOMIA website and then to the numerous Facebook pages about mail art. I get my first and add and passes, and I added and passed. If some mail artists were afraid that internet kills mail art, I lived the experience that internet helped support reinforced mail art. Today, mail art takes an important place in my life. It's a kind of addiction. I can't stop imagining, creating, and sending mails, and I can't consider living without receiving mail art in my mailbox. Jean-Charles Boilevin, international écriturist, 12 avril 2020, Montbazon, France. Hai capito. Ma io vi avevo alzato prima, ma... Ma noi non ce ne siamo accorte. Noi siamo stati in religioso silenzio nel cercare di captare questa canzone. Infatti, incredibile. Allora. Di solito si parla sempre dal vivo, invece registrati niente. Niente, ma perché niente. Dobbiamo prendere un po' la mano col mezzo. Ma sì, infatti, siamo intimoriti da tutta questa flessibilità tecnologica. Sì, è abbastanza spaventoso. Io sono un po' intimorito dal fatto che non capisco più niente di tutte le finestre aperte che ho. Comunque, loro si chiamano LAXs, che sarebbero persone che sono state che hanno vissuto a Los Angeles e adesso non ci vivono più. Sono quattro ragazze, tra cui appunto Jenny Owen Youngs, e si chiamava il pezzo Temporary Goodbye, un addio temporaneo, naturalmente, immagino, a Los Angeles. Il pezzo è uscito quattro giorni fa, Ma emozionissima. Ho capito una cosa, questo è una cosa che esce adesso di una Jenny Owen Young di tanto tempo fa. No, di adesso. No, mi ero distratta. Ah, no, il pezzo è uscito quattro giorni fa. Che io non vi distragga. No, non ti preoccupare, distraiti pure, non c'è problema. Ma io invece non mi distraggo, no, e sento che qualcosa sta mancando in questa puntata. Ma è possibile che manchi? È possibile. Manda la sigla. L'angolo della menzione. Non era possibile. Vai tu con la prima, Stefano. L'avete sentita? Si sentiva? Martedì 2 marzo alle ore 17 abbiamo, naturalmente tutto online, Capire l'arte contemporanea di Angela Vettese, che è un evento su Zoom gratuito, il cui link si troverà sul sito Facebook di Via Farini, perché è a cura di Via Farini e non c'è altra spiegazione, per cui non so assolutamente altro rispetto a questo evento, ma quello che so fare è schiacciare questo pulsante. Invece, per il 4 marzo alle ore 18, la presentazione in diretta streaming dal Museo Varoli del libro di Cristina Tassi, 41 di noi, Storia e storie degli ebrei di Cotignola, Longo Editore, Ravenna 2020. Assieme all'autrice interverranno Massimiliano Fabbri, Giuseppe Masetti, Guido Ottolenghi. Questo libro è pronto da un anno, e anche senza... sapete che non riesco più a leggere senza occhiali, e anche questi occhiali ormai non sono a sufficienza. Comunque, è da quasi un anno che questo volume è pronto, e anche se a distanza, purtroppo siamo davvero contenti di poter finalmente presentare il frutto di questa preziosa e appassionata ricerca, che riordina e approfondisce ulteriormente la storia e le storie della rete di ospitalità che tra il settembre 1943 e l'aprile del 1945 permise di dare rifugio e protezione a 41 ebrei dentro il paese di Cotignola, nella Bassa Romagna. Diretta streaming dal canale YouTube Museo Civico Luigi Varoli. Ed invece dal 2 marzo al 30 marzo 2021 potete recarvi felicemente presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50, vicino all'ufficio Relazioni col Pubblico, e potrete vedere, entrando negli uffici, l'emozione femminile nelle arti, poetiche, tecniche e materiali nelle ricerche contemporanee in Emilia-Romagna. E la mostra è a cura di Sandro Malossini, e all'interno c'è anche un focus su Lidia Puglioli, co-curato da Sandro Malossini assieme a Silvia Camerini. Per andare a vedere questa mostra bisogna farsi autorizzare, ma immagino verrete autorizzati, tanto è la regione che decide cosa possiamo fare e cosa no, e quindi vedi che quando la regione vuole poi le mostre si vedono. E allora possiamo andare dal lunedì al venerdì su prenotazione per info 051 52 75 427, ma lo ripeteremo sul blog, oppure potete scrivere direttamente al gabinetto della Presidente dell'Assemblea Legislativa, gabinetto Presidente Emilia-Romagna.it. Okay, è andato. No, nel frattempo, sì, no, in ogni caso si troverà naturalmente tutto come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com. Oltre alle emozionantissime foto prese dagli screenshot presi durante questa puntata. Esatto, come potrete vedere anche bellissima Fedra con occhiali, io con occhiali e anche Pasquini con occhiali. Certo, tutti occhialuti, esatto. In questa puntata. Devo dire che è una visione quasi celestiale. A proposito di occhiali, guardate che veramente negli ultimi 3 mesi io ho perso 1.5 punti in un occhio e 1 punto in un occhio. Ma proprio così. È così, e succede così. Anche a me è successo l'anno scorso, per cui non ci vedo così. Più niente. Vabbè. Ma perché siete ancora giovani, dopo invece si arriva a una certa età. Io che sono ormai con il capello canuto della saggezza, vi posso rassicurare, a un certo punto invece si recuperano. Ah, davvero? Sì, comincia a non vederci più. Ah no, perché tu non ci vedi da vicino. Allora no, tu non recuperi. Esatto, ma neanch'io recupero. Io che invece ho l'occhiale per lontano recupero, però poi da vicino comincio a dovermi un po' allontanare. Vabbè, insomma, non è interessantissimo. Comunque, no, infatti, anche perché invece ci sono altre cose molto più interessanti. Non so, che dopo vediamo le darguiti. Infatti. No, dicevo che ci sono cose molto più interessanti che riguardano i lavoratori dello spettacolo, ovvero continuiamo in un certo senso a parlare di dimensioni, perché quello che sta succedendo, mi dice Arianna Romagnoli, che saluto, è che Guido Foddis, che avevamo sentito qualche anno fa ormai, lui e la sua Repubblica delle Biciclette, sta facendo una cosa strana, ovvero ha organizzato, mi dice il computer non me lo fa leggere, per cui mi arrangio, ha organizzato una biciclettata che va da Milano a Sanremo ed è partita il 24 febbraio e arriverà a Sanremo domani, perché sappiamo che domani comincia il Festival di Sanremo. L'ultima ruota si chiama ed è una sfida su 2 ruote che prende come riferimento la classicissima di primavera del ciclismo. Ecco, io non so nulla di... Comunque, fatto sta che è ideata dal nostro cantautore Guido Foddis, e che scrive: è innegabile che i disastri economici della locomotiva italiana siano rimbalzati di vagone in vagone fino a raggiungere l'ultimissimo scompartimento del treno, su cui viaggiano senza biglietto gli artisti. Questa categoria invisibile, per tradizione sopravvivente al di fuori dei radar dell'Istat e degli istituti provvidenziali, ha finora ricevuto più like sui balconi che ristori. Attendeva con crescente angoscia la provvidenziale pioggia del recovery fund per dissetare una gola sempre più secca e screpolata. E naturalmente, come ben sappiamo, è arrivato molto poco, e dunque andiamo ad ascoltarci la canzone che lui appositamente ha fatto, che si chiama Recovery Funk, forse. Ho finito i ristori, oggi sono blues, oggi sono dolori, che di tesori non ne ho più. Sono al comproro del mio paese, dove ascolta solo pop cinese. Il tipo è molto cortese, ma i tesori a casa non tornano più. Ho finito i ristori, io che vivevo di jazz. Tutti i vecchi ristori sono finiti da un pezzo. Per pagarmi il conto dal droghiere porto pizza in bici tutte le sere. Intanto accendo la TV per capire se domani arriverà il recovery funk. Il recovery funk è proprio quel che ci manca. Finito i ristori, bruciati a tempo di ska. Mamma mia che dolori, che infiammazioni in banca. Questa sera c'è la luna piena, io pedale porto in bici la cena. Perché in quarantena intanto ho in testa questo disperato stomp. Il recovery funk. Funk, questo recovery funk, il recovery funk. capito, il recovery funk. Però non vi ho ancora rialzato perché non trovo più il mio mixer. Eccovi qua. Adesso e potete parlare. Finito i story. Voi li avete finiti? Che io sono lavoratrice dello spettacolo, solo quello. Voi magari insegnando ne avete anche altri. Poi forse avete gli stipendi voi. Noi abbiamo gli stipendi, ma infatti io adesso non so se tu, Fedra, hai riascoltato puntate da quest'estate ad oggi in cui io, supplente fedele, lanciavo questo nuovo motto, prof is the new artist, perché forse sopravviverà solo chi insegna. Io volevo solo aggiungere che il pezzo di Foddis è scaricabile gratuitamente dal suo sito guidofoddis.it, che non è male questo recovery dove funk. Si possono trovare anche i dettagli di questo evento, che effettivamente è significativo, andare a vedere come l'hanno fatto, che persone hanno incontrato, che esiti hanno avuto. No, perché effettivamente mi chiedevo, Fedra, ma tu che cosa ne pensi del fatto che Sanremo c'è in presenza, mentre invece per un anno non si è potuto entrare in un teatro? Ma mi provochi a fare queste domande? Certo. Lo sai che noi dobbiamo essere politicamente corretti in questa radio libera, no? Sì, ho capito, però è un anno che non lavori. Quindi è meglio che io taccia, però posso dire qualcosa di utile invece per i lavoratori dello spettacolo, perché io con immense battaglie sono riuscita ad avere tutte le elemosine che sono state date e mi sono arrivate nel conto corrente da quel di aprile, me li hanno versati tutti in un'unica soluzione a metà, oltre la metà di gennaio. È solo perché io ho avuto il tempo e la grugna di starci la dietro, costanza. Scrivere, ho aperto anche la PEC, di tutto ho fatto. E volevo dirvi che c'è ancora speranza e pare che ne stia arrivando un altro, perciò sulle orecchiette, ragazzi, andiamo a telefoniamo all'INPS tutti insieme, vai! No, io e Chiara non telefoniamo a nessuno perché noi siamo dipendenti statali. No, dico a chi ci ascolta. Ah, no, chi ci ascolta. No, che fra l'altro sono tanti i nostri ascoltatori che sono lavoratori dello spettacolo. E direi anche Oscar Moroni, che comunque, essendo colonna portante del Coxo, qualcosa d'artistico ce l'ha pure lui e si faccia valere all'INPS. Ecco. Chiara, non dici niente. Era il mio turno di dire qualcosa. Parliamo anche con Oscar Moroni, certo, di questo problema assolutamente. Che bello, siamo tutti scollegati via Meet. Siamo scollegatissimi via Meet. Abbiamo il diritto alla disconnessione, ma secondo me siamo abbastanza... Io vedo che l'orologio qua galoppa, L'orologio galoppa, siamo a 19 minuti e 32 di trasmissione e dobbiamo fermarci assolutamente ai 22, perché poi ci sono 3 minuti di sigla finale, per cui insomma sì, diciamo che abbiamo 4 minuti per raccontare qualcos'altro. Abbiamo anche la sigla finale, ma è un coxo ricchissimo di musica questo. Sì, no, anche, sì, ma perché non è una vera sigla, perché cambia tutte le volte, quindi diciamo che è una sigla finale, cioè, è una canzone finale, perché esatto, è battezzata dal direttore, scusami, che lui ha il potere di far diventare tutto ciò che vuole. Allora in questo caso no, io volevo aggiungere una cosa su Roberta Giallo, che forse è marginale, ma per chi conosce il contesto bolognese. Pasquini, ma non ti ricorda fisicamente qualcuno? Chi mi dovrebbe ricordare fisicamente? Posso dirlo, qualcuno che non è più qui a Bologna, ma che c'è stato per anni. La Liuba, dici? No, a me ricordava tanto Elvira. Ah, ma dai. Elvira Vannini, no? No, assolutamente. Vabbè. No, quindi... sarà che la conosco, perché siccome non abitiamo lontano, io e Roberto ogni tanto ci incontriamo per strada. Sì, no, non ci assomiglia per nulla. Perfetto, e quindi niente, se volete possiamo consigliare qualche trattato di fisionomica, che comunque è una disciplina completamente superata. Esatto. Ah, beh, a proposito di fisionomica, io ho comprato un libro che è del secolo scorso, però secondo me può essere interessante. Ne avete sentito parlare? Ah, ce lo stai facendo vedere? No, ma sì, ma certo, io ma se tu ce lo fai vedere in radio, noi non lo vediamo, perché infatti io non stavo guardando il vostro schermo, per cui... Ma che cacciara che fate? Non si parla insieme, prof? Fuori uno dei libri cult della mia formazione scientifica, il gene egoista, assolutamente. Chiara, possiamo farci un coxo speciale insieme prossimamente? Sì. Ma volentieri, beh, sul gene egoista ce ne sarebbe da dire, comunque è un libro abbastanza controverso. Tutto sommato direi che è molto interessante, ma vanifica un po' l'impatto della volontà su quelli che sono i nostri destini, che guardando un po' come vanno le cose forse effettivamente non è sbagliato, però... Sai dove l'ho trovato io sto libro? E a proposito, per chi non avesse visto, che per quelle altre persone che ci ascoltano, che non erano qui in chat con noi e che quindi non l'hanno visto, ho mostrato la copertina di Il gene egoista di Richard Dawkins. Il padre della cosiddetta sociobiologia. Sì, cioè in questo libro è stato coniato per la prima volta il topic meme, giusto? Ah, wow. È lui. Allora, questo sinceramente non lo sapevo. Io mi ero focalizzata su altro rispetto ai contenuti, però comunque sì, no, vabbè, dice tante cose, insomma, comunque... Perché io ho trovato traccia di questo libro e sto facendo delle ricerche su Neuroni Specchio ed è citato all'interno di uno di questi libri nello spiegare alcuni all'interno del capitolo sull'imitazione. E sostengono che questo Richard Dawkins abbia creato il termine meme per fare il corrispettivo del gene dal punto di vista culturale. Quindi in genetica... Verificherò questa informazione con chi tuttora studia queste cose in modo più aggiornato di me. E poi ci facciamo un cox! Anche invitare un autore di eccellenza, un genetista, magari. Adesso certo, facciamo... se ha voglia di coxare con noi, insomma, di scendere nel cox anche lui, va benissimo. Possiamo invitare gente da tutto il mondo, perché tanto siamo relegati in zona arancione scuro, per cui non possiamo uscire da casa. Andiamo direttamente su David Quammen, che sicuramente ci alza l'audience in questo periodo. Perfetto. Dopodiché il cox è finito, andiamo in pace. Sono passati 23 minuti, ringraziamo tutti quanti per averci ascoltato. E io ero... Chi ero io oggi? Oggi io ero Fedra Boscaro. Io ero Stefano W. Pasquini. E quindi io ero la Azzurro Chiara. Azzurro Chiara, sì. E tutti noi però siamo in arancione scuro. In arancione scuro. Con Roberta Giallo. A parte Roberta Giallo che rimane in giallo e che la ringraziamo. Coloristica. Un cox molto alla moda, sempre sul pezzo, per l'eterno presente. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Take a joke when you've had enough.